voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, né caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli di aprile. Sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldarsi e poi dormire. Dal nido di quell'albero le uova, per rubarle salivo fino in cima, ma sarà la sua chioma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola l'uomo ed una il cane. Io non sono cambiato, il cuore di pensieri sogni stessi, sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa che vi tocchi.